Allora c'è il Ghizzurano sta a gira. Ghizzurano, sono il chiamato Ghizzurano, ciao a tutti. Sì, buonasera. Oh, vicino di casa, la pasta buttatela. Buonasera a tutti, dai, ti ascolto, che sto preparando. Aspetta, sempre Magnelli. Entri a me lo ricordo. Sempre Magnelli è già. Sì. C'è ingrassare. Hai visto, mamma. Allora che andiamo a Villa Semius. E no, vi campeggio, che c'è mezzo a lui. Così, noi che vi siamo una macchina bruciata. E se ti va bene, se lo sai, io voglio. Certo, andiamo a dirmi tu. Dopo tanti anni che entrano lì, entravano, uscivano. Arrivano i piromani. È molto fuoco, hanno incendiato 30 macchine, ci appendi, ieri hanno fatto vedere questi due mettendo fuoco. E adesso queste macchine chi le paga? Magari qualcuno li serviva anche per andare a lavorare, chi gliele paga queste macchine? Nessuno, perché l'assicurazione, solo se in caso c'è l'assicurazione, come si dice, per le... per l'incendio è un'altra voce che c'è per quello di spaccare il vetro, queste cose qua, però devi far risultare che la colpa è perché l'hanno messo gli incendiari, se è partito da solo non ti pagano, se invece la colpa è trovano gli incendiari ti pagano, perché è per atti di, come cazzo si dice, spero non ricordo come la parola giusta, atti di vandalismo, vandalismo, esatto, però devono beccare chi l'ha messo il fuoco, se è partito da solo non ti pagano, e atti di vandalismo devi averlo nell'assicurazione, sennò ti pagano in una testa. Sì, ma aspetta un attimino, quelli sono il piromani, non può passare a giura un fuoco in chivi. Aiuto, è tutto messo da piromani, quella non parte da solo il fuoco. E il ragazzo Barga che tu non eri a pigliare. E te l'hanno fatto vedere ieri, l'hanno fatto vedere, che li hanno inquadrati con il coso, con il drone, mettendo fuoco. Ma invece di subito. E vabbè. E adesso ci sono anche, diciamo, i metodi per beccarli prima. Ma comunque, intanto hanno fatto quello che non dovevano fare. Aspetta un attimo che vado in bagno, un secondo solo. Sono qua. Finito di buoni libri farà. Preghi. Ehi, sono qua. Dai, ho bevuto anche un goccio d'acqua che c'avevo la bocca secca. E va tu bene. Tutta te l'hai bevuta. No, un bicchiere. Io bevo solo acqua, non bevo altro. Quindi se mangiando la pizza magari un bicchiere di birra già me lo bevo, ma non è proprio, diciamo, una cosa abituale. Hai visto che oltre a Villa Semius anche a Rosei, dietro a Usilo. Ah, ma pure vicino a Usilo. Vicino a Usilo, è grande pure l'incendio. Ma giammai si battono le cose di questo pastore qua anche. Tornando siamo andati a spegnere la Usilo, era un casino. Un po' come un me grande. C'erano i canali dall'altro, noi eravamo da terra spegnendo. Ma è molto dorrafugo. Deve darsi che sono sempre nei mattessi, comunque, due li hanno trovati. Amazio si chiede gli altri, perché dice che ce n'erano parecchio in giro. E li hanno individuato, sì, li hanno individuato. Ma cosa ci guadagnano a fare queste cose? Io non capisco. E me sono gente bagata, appunto, fa un incendio. Sì, ma per che cosa lo fanno? Per dispetto, per che cosa? Per lì ci passano tutti, non ci passano solo le persone a fare il dispetto. Io a quelli lì ne abbia fatto baga, tutto quanto ne abbia fatto baga, finta le macchine ne abbia fatto baga. Sono 30 macchine, pensa un poco, fammi delle baga manco zinco le macchine e non ne esci più. Guarda, mi metti in vaselina rabbia quando lo rubano, a questo qui che aveva rubato l'hanno messo in piazza davanti a tutti, hanno preso la civiltà, ragazzi, e l'hanno dagli altri mani, andavano a tutti, tutti che elogiavano, capito? Si è usato la schizzo, io sono visto l'amico mio, che era lì la rabbia, lavorando. Mi ha detto, cazzo, ha visto tutta questa gente, si è fermata, ha visto questo qua sopra questo palco, mi hanno tagliato tutti i due rimani, che ha furato in un'orologia. Penso un poco, questo deve essere, no, io rimani no per l'abbia tagliati, però abbiamo fatto bagare tutte quante le macchine, abbiamo fatto bagare, è tutto il disastro che ha fatto, e poi abbiamo fatto travagliare a punire a posto le piante, a pulire e mettere a posto le piante, a farle ricrescere. Ma le piante a ricrescere ci mettono anni, anni e anni, capito? Specialmente se sono piante secolari. Ma comunque io rimani dagli attagliati, così non puoi più fuoco, ma che se mi mangio legge una musa, non dovrò ne pulire. Io penso che lì si vende magari macchine, è tutto un disastro che hanno fatto. Non ne so nemmeno, ve lo dico, o si ammazzano. Certo. E come fanno a pagare tutte quelle macchine? Devono lavorare 6 vite per pagare tutte quelle macchine che hanno bruciato. Tanto costano i bocchi di macchine, va? E infatti, costano i bocchi così. 30-40 mila euro di macchina. Quello è meglio che prima che non lo trovino, perché se lo trovano passa brutti quarti d'ora. Mi hanno fatto vedere, hanno due volendo di fuoco gruppi. Uno era per riparare la cosa per metterla a incendiare, stava preparando. E l'altro era volendo di fuoco, ci vedeva con il bastone mettendo fuoco. Certo. E poi era cercato di sudarlo, era verdicino, ed è partito il fuoco. Poi c'è vista la forestale, circondati, e l'hanno invigliati, certo, ma dimmi tu. Perché adesso c'hanno i mesi, capito, per beccarli, allora non fuggino, pure dall'altro ti vedo. Con i droni, c'erano i droni in giro, poi ce n'erano altri due a Coso, vicino a... come ti si chiama? Vicino a Uzio. Hanno visto la macchina, prima e poi hanno seguiti. Hanno visto la macchina e hanno dato il numero a Daria. E i carabinieri hanno filmato subito. La giustizia è fina, mi va tutti bene. Dici che ne hanno beccato, sei ne hanno beccato. Tutti e sei raccomandati con i carabinieri e la forestale. Magari gli danno un tanto per bruciare, capito? Andati lontano, 1000 euro e via. Sì, e tu sei buono, la vita era galera, va 1000 euro. Certo. Ma li vuole un bel incendio, se li va bene, si fa nessuno. Io ho fatto 1000 euro per, diciamo, è un paragone, potevano essere anche 5000 euro, 10000 euro, non lo so. L'unica cosa è che la galera non me l'aveva fatta, aveva detto il nome, mi ha pagato questo tipo qua. Certo, ma se aveva fatto quelli 30 anni su. Ma devi avere le prove, se non c'è prove cosa rifai, non rifanno nulla. Anche quello è giusto, se non c'è prove non fanno nulla. E purtroppo incendiari, è tutta colpa dell'uomo che incendia. Oh, io ce l'avevo tutti in mezzo a Rufu, ce l'avevo tutti, non ne aveva fatti scena. Direttamente che a Ruffillo. Io un anno, qua c'era un caldo da morire perché è circondato dal fuoco. Siamo andati al Ghero. Quando stavamo tornando abbiamo visto il fuoco che attraversava la strada. Io non avevo mai visto una cosa del genere. Attraversava la strada, faceva dalla parte all'altra della strada e incendiava gli alberi, c'erano i pastori cercando con gli atomizzatori, cercando di spegnerlo, ma non ce la facevano perché c'era il vento e il fuoco camminava a me. Andando al Ghero, anzi tornando dal Ghero, verso le due, lo sono trovato anch'io il fuoco attraversando la strada e mi sono dovuto fermare per un bel po'. No, io ci sono passato a tutta velocità, l'ho tentata, vela da vela, perché se prende fuoco la ruota qua. Ah no, io mi sono dovuto fermare, sino a che non è passato i pompieri, sono passati a spegnere da una parte all'altra, e poi siamo passati. C'erano anche i rami incendiati che volavano col vento che c'era, capito? Volavano e che si abbassavano da una baciata e ci diavano i dischi. Io ti grido. Io ti grido che era così, no. Io avevo chissà da chissà molta. Allora andavo a pulire le spiagge, andavo, tanti anni fa. Ah, come lavoro? E allora? Stavo tornando con il coso, con il pulmino e gli altri dietro di me. Io guidando e poi ci siamo fermati. E poi c'è uno, c'era un incendio prima, il miglio che c'è prima di quello del terzo pizzo, per andare alla fattoria di quel miglio lì. Lì da una parte all'altra era tutto incendiato. E c'era questo qua, si è fermato in mezzo strada, ha detto, a cammino, guardare, a cammino che un gas da mezzo in vai in alto. Ha bloccato tutto il traffico, ma ne sono sceso dalla macchina, ha detto, ma voglio andare avanti, cazzo, che il fuoco dopo ci prende a lui, ci prende. E stavo guardando, ma vai, vai, lo stai guardando, vai cammina da anzi, si lo smiglia e se ne è andato. Passava a dire che cosa, la macchina, avevo detto che aveva camminato. Qua siamo a via un soppino acceso, mettendolo sotto, così andava. Ma che c'è di scia la macchina di scia? Che c'è per bloccare davvero il traffico? Perché il fuoco stava, era bello acceso, capito? Fiammate alte, cazzo, lui si è fermato a riprendere col telefonino, capito? Stava guardando, quando mai uno che si macco, da fermarsi quando c'è pericolo, vai e esci dal pericolo. Ma comare che c'hanno non hanno fatto a battere il platanona. E lì incendiavano sempre il cannetto. Infatti lì si incendiavano il cannetto. E poi abbiamo davanti burbuliani in fungo. Io me lo ricordo, noi eravamo a platanona, ci vedevano i cani perché prendevano l'acqua dal mare e spegnevano l'incendio. Ed era alla parte dove c'è quella collina dove c'è quella casa sopra. Certo. Ma invece c'era giopigliene tutta la base di osso, c'era giopigliene, la base di gagliari. E c'è però da passare oggi lo che sanno un po'. Dipende dove vogliono fare. Tu pensa a questi poveracci pastori lavorando tutto l'anno per fare foraggio, riparando bestiame, togliendole, rimettendole, facendo e mungendolo, da cui bruciare tutto, eh? Cosa ne hanno, poveracci? La Venezuela, in mezzo a quelli di Osilo c'era la fattoria in mezzo che stava prendendo fuoco, ma fortuna sono riusciti a filmarlo in tempo, sono riusciti, e il pastore che l'hanno dovuto portare all'ospedale e anche c'è pieno di fumo. Noi una volta che stavamo facendo servizio antincendio, andando lì verso Porto Torres si è incendiato un capannone pieno di fieno, c'erano i cavalli, li abbiamo liberati, i cavalli scappano, ma le pecore sono, si mettono tutte quante, si mettono tutte insieme, capito, stanno ferme, non scappano. No, le pecore no, io l'ho visto quello. Le pecore hanno dovute togliere a forza, in fretta, le hanno dovute togliere, mandarle fuori in fretta. No, le pecore sono un po' vigliacche, si fanno bruciare, però non scappano. Ma i cavalli scappano. Il cavallo non sente il pericolo, ma le pecore le devi dragina pura, le devi dragina e vigliare e tirarle, se no non vengono fuori. E il padrone ha detto: dove siete venuti a vedere lo spettacolo? Che spettacolo, siamo venuti a aiutarti, che spettacolo, ci sono i cavalli, ma non so se entrare o no perché c'è il fuoco. Siamo entrati, abbiamo liberato due cavalli che c'erano e sono scappati. Come li hanno liberati, ci ho buttato a gurri. Gli altri grillo non ci rimangono lì, no, i cavalli proprio scappano e se ne vanno fuori, ma le pecore le devi dragginare, io l'ho visto tirarli fuori, il cane che li morsicava da dietro per farli uscire, cazzo, si è fatto entrare i cani, dei quattro cani, adesso sono usciti in pressa. Perché il cane pasturi e vogliono liberarli sicuramente. Ma il fuoco è sempre, sia l'acqua che il fuoco sono due cose da temere, tutti e due, uno e l'altro. Infatti così, l'unica cosa è non vederli litigiosi, per carità, che gente, io ci appendere, abbiamo fatto di tutto per farcela andare in mezzo al fuoco. Anche a me mi dà il fastidio che sa niente. E non pensano che ci sono persone che ci hanno lavorato tutto l'anno dietro, che non ne frega nulla. No, la gente senza cuore, senza cervello, perché se avesse un po' di cervello certe cose non le farebbe. Ma se il cervello vanno io vuoi fare, ecco cosa vanno. Vanno a baglia vanno. No, il cervello no, c'hanno la paglia. Ma c'è fare certe cose e non avere proprio né sentimenti né niente, proprio non è una futina da nessuno. Dico sì proprio, una di stavamo tornando da giù da Coso, da Alghero, e c'erano questi qua che stavano giocando con il fuoco, stavano giocando. Sto andato a battere lo fuoco, e il battore ha detto: ah, vabbè, per me di chili. Ho cominciato, no, dobbiamo andare via, però che ho tenanni bruciato, tenanni, l'ha minacciati, sono venuti i carabinieri e se li hanno caricati in macchina, li hanno portati in caserma. Ma per ogni cosa può succedere, ma se sono cose accidentali, vabbè, è brutto lo stesso, però se sono accidentali non conto, ma quando lo vai a puzza. Una volta è successo vicino a Sella Mosca, siamo andati a spegnere un incendio, c'era questo con la mola tagliando ferro e le scintille hanno appiccato il buco, grazie, mi ha fatto un fuoco, vanno, sono dovuto intervenire anche il cane. Certo, pensa un po', non si avvisa che con le scintille batterò un fuoco, baci, certo. E gente che non riesce a fare la cosa come si deve, ecco. No, bastava fare un capannone, qualche posto chiuso, purtroppo magari uno non ci pensa, ma sì che succede accidentalmente un conto, ma quando lo vai a puzza, è proprio da vigliacchi, da persone cattive, cattivini a quella lì. Il pastore che hanno visto che è passato, meno male che c'erano vicino, c'erano questi della forestale, sono riuscito a sudarmi. stavo, il carabinieri dice che ne siamo buttati sopra, il fattore di domani è salito su e ha messo che mi paga il pezzo del terreno, perché era foraggio quello lì, serviva a lui per gli animali, c'è che me lo paga. Mi ha mandato a vedere quanto dobbiamo pagare, un bel denaro, il foraggio io lo compro adesso, lo devo comprare per forza per gli animali, per l'inverno, e si è fatto pagare. Col fuoco non si gioca, bisogna stare molto attenti. Io anche con la cucina chiudo sempre la bombola, tutto dato il gioco attento, li cambi i tubi, faccio quello che posso, perché sentendo questi scoppi di bombola e coso ho sempre la paura io. E anche noi la bombola ce la chiudiamo la sera, la notte, quando esce sempre la chiudo, solo che sempre un po' di gas rimane nel tubo, capito? Se c'è qualche cosa che lo fa innescare, magari c'è la perdita nel tubo e ti lo battesse, come vai a accendere la luce, boom, esplode, perché rimane a mezz'aria, il gas rimane a mezz'aria, non sale su. Sì, infatti. Io non ce l'ho in gomma il tubo che porta alla cucina. Viraggio in alluminio, viraggio. Ah, ti ha fatto il coso delle due bombole, l'impianto. E quando ho preso la cucina mi ha dato il tubo in alluminio, hai capito? Che va attaccato al piatto cucina, ecco cos'è, e arriva sino alla bombola con le cose, facevo sempre così, cioè, mi pare roba di 30 anni. Però mi cambiava, quello non si cambia, vero? Quello non si cambia mai, è sempre nuovo. Ah, ma non che non si è bucato? Allora sì, però non si rovina quello. Ma il gas, siccome è freddo, brucia, asciuga, si mangia la cosa. Con quello lì no, perché è fatto in una maniera che... Scusate, c'hai quei tubi che rimangono, che li stringi e rimangono a molla. Sì, ho capito. Così è quel tubo lì, non si rovina quello. Ecco, c'è un bene. Un metro di questo tubo che costa 20 euro di guscia. E va bene, io cambiati tutti e due nella bombola, quello che ho nella veranda e la bombola che ho dentro. Io quello sempre lo controllo, ogni anno me lo controllo. Viaggio roba di 30 anni, viaggio, da che viaggio comparato la cucina. A me l'ultimo me l'ha mandato il mio bombolo, l'ultimo me l'ha cambiato Antonio. Cosa ce l'hai? Fuori ce l'hai le bombole? No, ho fatto un cucinino nella veranda, ho piastrellato e ho fatto un cucinino nella veranda, perché c'è la veranda scorrevole. Ho fatto un cucinino lì, frigo d'estate, quando per non fare odore dentro casa, quello frigo, e quando ci sono da fare odori vado in veranda, tipo carne arrosto, roba così, capito? E ti ho fatto un cucinino. No, io ho la cucina grande e cucino. Però adesso devo buttarne la veranda e mi devo fare il muro, a metà muro, metà cosa, e forse la cucina la trasporto lì. C'è la cucina dentro casa, c'è la cucina componibile, però per certe cose, per non far fiago dentro casa, la faccio fuori, capito? Apro la finestra della veranda perché è scorrevole e così gli odori escono, e la tengo la porta della cucina chiusa di modo che non entri gli odori in casa. Ma trasferendo, mettendoci un cucinino lì, facciamo così, metto lo stesso YouTube preciso, metto che ti dura così, non devo stare sempre già venendo in gomma. Se c'è l'opzione, ma cos'è malleabile? Come è un tubo malleabile oppure è duro come tubo? Rimane tipo flessibile, visto è come il tubo flessibile. Allora questo è in alluminio, è tutto in alluminio. Allora lo metti come vuoi, lo giri. Lo giri come vuoi. E quindi è malleabile, si può modificare, non rimane detta lui. Non rimane duro, tu puoi modificare come vuoi, fargli la curva come vuoi, hai capito? Sì. E a me me l'aveva proposto Pistoluzzi, me l'aveva detto se lo volevo fare quando c'era ancora Pistoluzzi, voleva fare una specie di casupo là fuori nella veranda e metterci le bombole. Poi abbiamo deciso di metterla a cucinare, cioè che ce la fa fare bucare, fare, mettiamo un cucinino con la bomba e vado io. Cioè, è dato a una parte e è dato all'altra. Cioè, era pensare alla cucina e alla bombola. Sì, ho capito. E poi anche per quando ti manca la bombola c'è sempre la cucina di riserva, capito? Perché a me mi manca sempre di domenica, non lo gioco a te, ma a me sempre di domenica mi manca. No, a me mi manca di sabato, mentre di ghedda, anche la domenica mi è capitato, però c'era il bombolaio aperto. Vabbè, para è sempre aperto, tranne l'estate che va in ferie, se no para la domenica la porta. Ma mi sa che in ferie si ripigliano a uno. No, prima chiudeva la domenica, quando andava in ferie la domenica chiudeva, non è portata l'estate. Perché ho provato a telefonare, non rispondeva nessuno, più chiamato lui, gli ho detto, ma te no, siamo in ferie, quando siamo in ferie non le portiamo. No, adesso sta aprendo. Sono in quattro lavorando, in compreso. E c'è lui la domenica, questo ragazzo. Ma io la prendo qua via Valdella, pare lo stesso, però è via Valdella, è a due bassi da gas. Sì, tu ce l'hai più vicino, io ce l'ho qua da Pala, però di solito ce l'ho e la prendo una in più, ne prendo, me la tengo di scorta. No, io ce l'ho una in più perché ce l'ho un'altra cucina, se finisce in una cucina la trasferisco oppure cucino con la cucina di fuori. E fai prima, ed è meglio così, infatti. E solo che avete tutti che si muovono, è pericoloso, mamma mia. Sono cose pericolose a tenere in casa. E se non l'impianto del gas non è pericoloso, mamma mia. Io ho visto chi sa scena, mi ha acceso le Battisti, gente muta, gente ferita, gente con il problema a capo l'occhio, cazzo. C'è gente che ha perso anche un occhio, un ragazzo che stava comprando le scarpe di fronte, c'era un negozio di scarpe di fronte, cazzo, ha messo luci, ha dato la schiglia in faccia. Io ho visto quello vicino nella via di Novepala, lì vicino era scoppiata la bombola, era scoppiata. Io mi trovo disastro che ha fatto, dicevo che è stato in presa per vedere se c'era qualcuno, e c'era questo uomo qua che gli ha bruciato tutto il coso, e ce l'ho sceso giù piano piano, ho sceso. E qua arrivi dall'ambulanza, gli hanno detto dentro l'ambulanza, girato a pancia a terra, e gli hanno messo la pomata con le gazze. Le bruciature, sì. Solitamente le mettono quel telo che sembra alluminio, dai, quel telo d'alluminio, quello che sembra cucchi. Ma prima non c'era nessuno, adesso c'è, prima non c'era. Ma prima che mi cantare se va a vedere. Quindi io le cose c'erano 25, 30 anni. Pari a rimani, no? Pari a rimani. Certo. Ha visto l'appassamento di distrutto. Ha distrutto tutto. suo appartamento. Aveva l'appartamento dell'ente popolare. E come mai è scoppiata la bombola? Da cosa, non so se dal tubo difettoso. Si è fatta la cucina, si è fatta a satura. Lui ha sentito il gas, però non ha pensato di aprire le finestre. A cesura ruzzi, boom, è copiato giù. La prima cosa è aleggiare con una scopa a buttare fuori il gas, a mezz'aria sta. Sembra così, però lo devi buttare fuori con una scopa il gas, lo devi spingere verso la finestra. Infatti, devi spingere verso la finestra, faccio uscire. Invece sentiva l'odore, sì, è andato a Tesuraruzzi ed è esploso alla finestra, dice tutto da Robaccone. Ma purtroppo non ci duello. E invece ha avuto un dono, praticamente è tutto la moglie, l'ha fatta in sangue, sono andati con l'ambulanza, poi sono arrivati i carabinieri, stavano a salire su a prendere a lui, ha pigliato, ha messo la bombola, ha fatto esplodere tutto il tetto del palazzo, anche lui l'hanno ricoverato, però si era ripreso, quando poi l'aveva acciappato molto, andando a sorso in quella grotta che c'era, andando a sorso nelle cuffie, ha trovato lì dentro, morto. Faccia l'anima Giulia, ma non fa più, non fa più nulla. Tu si guida, calendare. Ma quello ha rovinato tutto un palazzo, l'hanno fatto evacuare senza tetto. Il palazzo è completamente scoperchiato. Pensa un po', che disastro che esce, da mantenere a posto le bombole. Sì, ma lui l'ha fatta apposta, per non farsi prendere. Tu pensa che un carabinieri gli ha detto dare casa e buttare un muro. L'ho fatto altro. Poi aveva cotto un coso di rabbettura a capo, l'aveva cotto. No, la deflagrazione, come è scoppiato? La deflagrazione l'ha sbattuto, l'ha fatto cadere dalle scale e l'ha sbattuto al muro. E se sei vado? No, sei a conto, no? Sì, è salvato, già sei salvato, però tanto, cazzo, boh. Ha avuto il coraggio di farsi esplodere, ma lui l'aveva detto, se salite faccio saltare tutto. Io dicevo, alzati, pensavo lì che la vita diceva, bravo, e invece l'ha fatta via. Vedo delinquente era. Oh vabbè, era fatto dalla droga, chissà. C'era drogato, era fatto dalla droga. Devi vedere come ha fatto la moglie, tutto il sangue in faccia, va via, tutta piena di sangue. Ah, aveva fatto così. Aveva fatto acqua e tutto il roccio a capo, l'aveva fatto. Altro che aveva fatto tutto il giangurone, l'aveva fatto. Purtroppo. Io ho un amico di adesso non c'è più, è morto. Poi sono andato a casa da lavoro e gli è morta la moglie, non lo scoppio di una bomba. E ha trovato tutta la casa distrutta, completamente distrutta, e la moglie è morta. Certo, cosa. Io già è peggio, no? Io so a me le bombole io, ma se no l'impianto del gas, è poco rodimmo che non è fatto bene. Sono cose delicate, questo è un gas di città, io non ho voluto mai mettere, ho lottato, con la mia moglie ho lottato, perché lui lo voleva mettere, io non l'ho mai voluto mettere, perché ho visto la strage che ha fatto via Cesare Battisti, mi è bastato visto. Ma quello di via Cesare Battisti era gas proprio, che era rimasto nei tubi, era rimasto, ma cioè, però quello che c'è adesso è gas trappanato, anzi non gas, aria trappanata, ecco cos'è, e questo non fa quasi nulla, non fa. Il gas è proprio che è pericoloso. No, che è pericoloso anche quello, perché come si chiama? Medea subito ha detto che non è la cosa. colpa loro di quell'esplosione che è successa un po', che abbiamo pensato lì, ha detto che era una bombola, che non era roba loro, perché tutti stavano dicendo è l'impianto del gas, questo e quell'altro, no? Dice è una bombola, non è roba nostra. Ah, desde quello che dopo si è scoperto che era una bombola. E purtroppo invece così non c'è. Boh. Oh, se portano il gas di città, come hanno detto, da Porto Torres a Sassari, con Medea che toglie l'aria preparata, allora sì. Che me lo voto, ma se no no. Oh, io preferisco la bombola, dico la verità. Qua passa, via, il mio palazzo passa, qualcuno se l'ha messo, ma io non l'ho voluto, non l'ho voluto io. Ho paura, ragazzi, quando sono qui uberi di litri di gas, se scoppia Pandana Viru. A me che se scoppia anche, se scoppia gli altri, cazzo, fanno il brumare a me, ma io in principio non lo metto. Sarà un'idea sbagliata, però ho paura. Da quando ho visto quello di Cesare Battisti, addirittura uno aveva una macchina a me, ma la bigliata si è caricato ferito. E l'hanno denunciato perché dice che ha rubato la macchina, ma lui non l'ha rubata, no. L'ha presa per emergenza, poi l'ha riportata però. Qualcuno in coso, non ho capito cosa stavano dicendo, deve essere che è vicino, e ti sopramodulato. A me. Con gli sbratteri, non ho capito nulla cosa stavi dicendo. Ma di sbrattere era. Di sbrattere, ma doveva essere vicino però. Vicino a te sarà stato. Se ti splatterava a te, tu non sentivi mai, vuol dire che era vicino a te. Sicuramente, non vicino, ma certo, me ti copriva. Io quando ti arrivo di segnale? 9:20 mi arrivi. Mi arrivi forte. Ma chi c'era ancora più forte? E allora vicino, proprio vicino. Non lo so. Era di sbattere forte proprio. E c'era la propagazione, a volte anche la propagazione che rompe le scatole. Quando ci deve essere non c'è da qui, rompi le scatole quando si va a vedere. E anche così forte. Che sta fischiando avanti. La frequenza. Avanti, la città di Sassari, il nord Sardegna che ti super cordializza, avanti. È una propagazione che non è continua, ogni tanto va via. È l'operatore già il doppio lungo che ti super cordializza insieme a Torre Squalo, avanti. E visto che è la propagazione. Ma non è così forte il voto, la sorpassante, no? Non riusciamo a capirti quello che dici, perché c'è rumore di propagazione e tu non arrivi tanto forte, capito? Buona serata, ma non abbiamo capito da dove fare. Adesso sei arrivato Santiago 3 e c'era poco rumore, quindi ti ho sentito. Da 9 moduli. Cosa ha detto, tu? Io non intendo nemmeno, penso un po' a voi. Ah, non lo senti? Può ripetere che non ho capito da dove. Molise? Qua siamo in Sardegna, città Sassari. Capo, ti saluto perché non ti ascolto più, la propagazione viene e va, non è continua, mi dispiace, dai, salutoni, alla prossima. Avanti. No, io non lo sentivo per niente, 0-0 proprio. Ma io lo sentivo Santiago 3, ma a volte lo copriva questo rumore che c'è della propagazione, capito? No, io nulla, zero. Zero riporto zero. No, non sentivo per niente. Vabbè. Magari non era favorevole per la tua zona. Infatti. La zona tua è più favorevole a cosa? Lo senti più forte, la senti? Dipende dalle zone, magari c'è delle zone che prendi meglio tu e delle zone che prendo meglio io, ovviamente. Dipende sempre dal Molise, io lo ascoltavo, però Santiago 3. Sì, c'è giorno che arrivi più forte, c'è giorno che arrivi basso basso. Infatti, se la propagazione è forte e continua va bene. Io sono stato a volte anche un'ora parlando in propagazione con una rotta di furi e ho parlato per quasi un'ora. Sì, prima sì, gli arriviamo a voce con la propagazione, arriviamo in voce. E Cassolino ha giubbato. Chiesa, ma va, invece ti arrivano qualche volta, però basta. Io ce le ho ancora conservate le QSL, prima dalla Inghilterra, dalla Francia, dalla Spagna, dal Portogallo e da tutte le parti. No, io ci ho buttato tutto, non ho più nulla. Sta girando tutto quanto, ci ho buttato. No, sono dei bei ricordi, perché li devi buttare. Io ne ho bruciati io dentro una scatola, ce li ho. Quando ogni tanto vado a riguardarmene. No, io ce l'avevo dentro una scatola, poi ha giubilato, ha arrivato pulizia e si è girampato tutto. C'era uno dalla Svizzera che abbiamo mandato sotto un bicchiere della birra, assurdi, come di roba, la cartina dove si trovava lui, col puntino dove abitava, un sacco di roba, Pascal si chiamava. Uno c'era che mi aveva mandato dei sottobicchieri, dalla Svizzera, se li aveva mandati. Cioè, ha detto, i sottobicchieri, mamma, chiedetemi. E la Madonnina mi aveva mandato la cartolina. Di questo qua. Io a quello gli ho mandato la cartolina e il sughero e qualche monetina gli ho messo. Lui mi ha mandato sotto i bicchieri, monetine, dépliant, adesivi, ma non è che la roba l'ha mandata. Se no non maggiorissimo due gli adesivi. Adesivi dall'Australia anche. Avevo di questi qua. Che erano dentro la foresta. Avevo mandato. Prima era più bello, adesso ti giocato su internet, non c'è più gusto. Prima c'erano cose che ti rimanevano. Erano cose più belle, dai. Se andiamo a Santiago, quando arrivavi, tutto quanto, 7351. Si scriveva le nome, eccetera, la bellina, queste le io ne ho avuto diverse che erano belle proprio. Ce n'era una che mi ha mandato questo qua dal Belgio, che tu giravi la cartolina e rideva, una faccia di un uomo, no? Rideva, poi girava dall'altra parte e piangeva. Infatti, ma ce n'erano cose belle allora, ma invece tutto funziona con internet, funziona, e ho che ti godi, vieni già pochi in giro. Oh, continente, gli apparecchi stanno funzionando ancora. Hanno fatto anche dei club, loro sono diversi, la pensano diversamente, non c'hanno... Loro organizzano gite, fanno tutte queste cose, caccia tesoro, come si faceva prima qua, prima quando c'era Radio Club Nord Sardegna, la sede di CB, in via Lussati, si organizzavano caccia tesoro, gite, tutto grazie, io sono andato, io ci sono da tanto tempo in frequenza, quindi ero ragazzino, però ci andavo. Quando sono salito a Genova, c'era mia cugina che mi aveva portato al Radio Club di Genova, e poi abbiamo in una sala manna, e dentro c'avevano anche il bar, e avevano fatto un circolo, avevano fatto. Ma io penso, se tu stai lì, non moduli, quindi è inutile che tu stai nella sede e poi non modulare, però... La sera tardi noi ci trovavamo in sede e mangiavamo la fainina, la pizza tutti insieme, facevamo caccia tesoro, scazzevamo, c'erano ragazze, ragazzi, uomini grandi, di tutte le età ce n'erano. diciamo che ci divertivamo, dai. Prima c'era più spazio, adesso vabbè è diverso, però ci sono queste sedi continentali che hanno formato delle associazioni, qui stiamo dicendo Giulio, che hanno formato queste associazioni, ognuno ha il suo illuminativo, tipo un programmatore illuminativo rimane. Anche nel telefonino su Facebook li trovi che si mette e si scrive con loro, sono scritti, ma ce ne sono parecchi della Sardegna scritti. Sì. E poi c'era Alfa Tango, te lo ricordi Alfa Tango? Io me l'ammento, certo. Ma direi che non se ne ammenta. Lì sanno che qua in Sardegna non è mai nata nulla. In continente si organizzano di più, c'è poco da fare. In Sardegna magari a Urbia c'è la sede, mi pare. Però ci sono pochi cibi, capito? Quella è la ragione. Se non si rientra a modulare e tutti si attaccano al telefonino, siamo buttiti. Io sono uno di quelli, però faccio uno e l'altro. Sto anche al telefonino, non lo leggo, perché oramai pure a me mi ha bisticato. Se mi si è bloccato un telefono per un paio di giorni stavo impazzendo. E impazzendo come se fossi drogato. Certo, ho capigliato a te puro, scherzo del telefonino. Sì, perché io col telefonino canto, poi vado su internet, vado su YouTube, giro diverse cose, capito? Quindi va brillando malissimo perché ho le mie amicizie, la sera ci troviamo, facciamo il salotto, parliamo, cose, quindi ti attirano in certe cose e poi alla fine ti prendono male. Devi stare attento perché ti prende proprio male, ti prende. No, ho visto che sei attaccato al telefono, no. Preferisco stare attaccato con questo e con il telefonino. E ti crea dipendenza quel telefonino, ma lì sì, ma la giusti, non ti abitui, ma poi alla fine ti crea dipendenza. Stavo facendo un aggiornamento, mi si è spento, non accendeva, non spegneva, ho detto così sul ziso, non si rimbocava manco la batteria, quindi l'ho lasciato così, poi si è ripreso da solo, ha fatto un cerasito aggiornamenti effettuati, e si è rimbigliato da Azzurra. Cos'era, un Samsung? No, Oppo. Ah, quelli si fanno gli aggiornamenti, a ragione si fa. No, io ho il coso della Apple e quelli l'aggiornamento glielo devi fare tu. Ci sono aggiornamenti che si fanno loro, aggiornamenti che devi fare tu. Vuol dire cancellare tutte le fotografie, i buoni, io vado a concerti, vado, faccio filmati, faccio un sacco di roba. La salì invece comunque ci ha cancellato tutto quanto. Figurati che mi ho cancellato anche tutte le cose, le suonerie che avevo messo e cose, non ho dovuto rimettere perché per sbaglio l'ho cancellato. In mezzo alle altre cose ho cancellato anche questo. Così non riesce più a capire più nulla. Me ne sto un po' confusa io dal telefonino. Ma già mi fa compagnia, dico la verità, perché c'ho amicizia e canto, faccio i contest, faccio le gare di canto, di cose, quindi mi piace, capito? Mi piace cantare, mi piace conoscere gente nuova, insomma, anche se virtualmente, perché diciamo che su internet se ne ho conosciuto due davvero è troppo. dai, andiamo. Sì, vabbè. Cata, chi no? È entrato, il vicino di casa, è entrato, non sente giù più. Chissà se ha mangiato. Aveva l'ha mangiato un frigorifero. Mangiando le salsicce, c'era... Sì, ha fatto l'entrata di un leone e a voi si è fatto minorito, è asserrato. Ma per andare al lavoro, forse stava preparando, ma gli ha più da lavorare, capito? Infatti già lo capisco, sì. Noi invece, cioè siamo qua e ci fermo delle negozie da Baranuglia. Vabbè, ma noi avevo travagliato, non è che ci possiamo in femmino, anche noi l'avevo fatta la gavetta. E ho fatto callarsi a farci la gavetta. Ma se non mi è toccato prima che se di la Mondessa, che l'ha detto di munire un freno ai gascioni, che le mani che subentro fossi si buttava i gascioni e munire a mezzo carrina. E poi ci rispondono male, no? Non è che sono molto delicati, ma anche i ragazzi adesso se dici qualche cosa ti mandano in quel paese. Ma che gli avevo detto che mi conoscevano, gli ho detto ragazzi scusate se vi faccio le voci, però dovete mettere il freno, il cassonetto, fa cosa, che non mi si deve accudire la macchina, se non volete che giù vi facciano le voci, e io penso che la mattina ve lo dicano. Beh, quelle sono cose che devono fare in automatico, che noi la sai senza, e che anche ci rifiuti di cucina giù vici, e una volta che li svuotano, li sbattono, li danno la rincorsa e si chiudono il marciapiede e si blocca così. No, tu lo devi fermare con la calma e le devi mettere il freno. Noi facevamo così, con andassino e un cassone. Se il cassone se ne va e tocchi qualche macchina con il cassone, la colpa è la tua, mia, lo sai? Dice che c'era quella zona lì facendo i cassoni. E tipo. E giù, quando scendi giù in deposito, dice tu hai lasciato il gasone senza freni, ha fatto rubare il danno. E una volta ci hanno toccato la macchina in via Rockefeller, dove c'è quel negozio di alimentari. C'eravamo parcheggiati, eravamo nel negozio, poi è entrato questa signora, guardi che cavolo della Mondessa come ha fatto la curva col pedalino dove si mette il turbino sopra, ha toccato la macchina, cioè gli ha fatto tutta la piancata, siamo usciti pure, se la targa ha presa, no, e allora siamo andati a cosa della Mondessa, non ci hanno creduto, ha detto che questo autista che c'era nel servizio, ha detto che non era vero, che lui non aveva toccato a nessuno, capito? E noi ci avevamo anche il testimone, era una commessa del negozio, perché era pure a buttarci la Mondessa, aveva visto tutto. Loro dicono di no, però io ti faccio vedere che con il coso, con la pedaliera, ti avvicini il camion, avvicini la macchina al camion, se la misura era giusta, sei dusci. Poi sei passato tu lì, non si può passare via con un camion. Quindi, già c'è molte volte che ti fanno le cose e confronti a vedere. Poi gli devi fare l'assicurazione. E loro diceva qua testimoni ci sono, ho cercato con la commessa e ha detto che lì non voleva testimoniare, che l'ha visto però non voleva dire nulla, che non gli piacevano, che dopo la mettevano in mezzo ai casini e cose del genere, non ha voluto fare, capito? Se no c'era anche il testimone che li ha visti. Ha detto che loro sono andati avanti, come hanno fatto la curva, il camion dietro si è girato, perché ha le ruote che girano dietro, no? Come ha girato, si è spostato il coso con la quella pedaliera dove si mette sopra il turbino, lì l'ha toccato e l'ha fatto la strisciata tutta la fiancata. E quello che c'era dietro dove è andato a finire? Perché quello lì, quello vede tutto. Non lo so se era sopra il camion o se era dietro, questo non te lo so dire, perché a volte salgono in cabina. È pagisso, che non la vede la parte di dietro, non la vedo. Vabbè, che quei camion lì, questi nuovi hanno la telecamera, quindi lo vedi quando fai i giri. Quindi. E questi luoghi, ho visto che non c'hanno manco il turbino, prendono le cassonette, tutte in automatico, si avvicinano, prendono il cassonetto, lo svuotano di lato e c'è solo l'autista. Che c'è di 3 anni fa e l'appalto che c'era 3 anni fa, ma questo l'appalto di adesso non ci sono più quelle macchine, però queste qua, queste macchine qua hanno la telecamera dietro, ecco cos'è, e lo vedi quando stai svoltando. No, ma io ti sto parlando appunto di 3 o 4 anni fa che è successo. Vabbè. Comunque, se l'avevo dovuto pagare lui, a chi non l'avevo dovuto pagare, tu, io non posso sapere se è vero, l'autista l'ho chiamato, l'ha sentito cosa ha detto, che non era lui, quindi io cosa posso fare? Mica gli posso fare l'assicurazione se non è stato lui. Ma scusi, se l'ha visto anche la commessa del negozio, come fa a dire che non è lui? Se è lui che è passato a quell'ora lì, perché noi abbiamo preso l'orario e tutto quanto, quella lì non ha preso la targa, se no se prendeva la targa l'ha fatta. Ma se non prendeva la targa, loro la responsabilità c'è lo stesso, mica ma anche la macchina. Se gli rimane il segno delle, ti rimane il segno nella fiancata della pedana, quindi non possono dire di no perché sei tu. L'avevo fatto ugualmente l'assicurazione loro, non deve dire di no. Ma è un delinquente, perché se no avrebbe detto sì, guardi, non me ne sono accorto, l'ho fatto io, stavo lavorando, continuo a tardare, ma adesso gliela faccio, basta, tutto lì. Invece trovi sempre gente che è in malafede, capito? Sì, noi quando l'autista toccava che scendevano giù, dice porti la macchina qua signora, una signora, signore, e confrontavano la pedana. Se la pedana era giusta, il graffio che ci aveva, le facevo l'assicurazione, se no no. Il graffio non punta la porta come la piscatola, l'ha proprio bucata. Carrozzeria. Abbiamo dovuto far aggiustare la carrozzeria tutto quanto, ci è venuto anche un bel po' di soldi. Se ti apri che te lo faccio affriscato nella biancata delle cose, dice basta gli sportelli che vuoi gli sportelli nubi. Dipende, per dire, l'avevo portata all'Inter, ci ha detto che ci voleva l'uomo la parte, invece l'ho portata la Coppa me l'ha fatta. Cosa la puzzo? La ramiera la puzzo. La saldando. No, la saldano, poi lo levigano e lo stuccano, fanno così. L'ha drizzato, poi gli ha fatto due punti di saldatura, sicuramente ha fatto così, non so come ha fatto perché a me me l'ha donata lucida la macchina, me l'ha fatto. Però il viso sportelli che non ribui a pulsare, che se l'apri a briccatura e un mantiere non ci riesci a aggiustarlo, e poi lo sportello nuovo ci vuole, se questa roba di 400 di 500 euro lo sportello. Ma non è che l'ha aperta tutta, no? Il primo pezzo l'ha aperto, l'altro l'ha fatto la strisciata proprio, capito? Il primo pezzo, un pezzettino l'ha aperto, sono stati un 5 centimetri, e poi il resto l'ha fatto il segno, tutta la macchina. Mi sto facendo vedere il pezzo di Villa Senioso, le 30 macchine bruciate. Ah vai, che fiume ti so. Adesso l'ha mandato a chiamare i proprietari di quelli che l'hanno messa nella spiaggia la macchina per loro, per non incendiarsi, e hanno chiesto di spostarla dalla spiaggia perché fanno il bonifico, tolgono anche tutte le macchine che si sono bruciate e ripristinano tutto. Ma proprio Villa Simirska, che è un punto così bello, casa del mare, io ci sono andato, sono stato mi pare 5-6 giorni lì a Villa Simirska, eravamo in albergo, ci avevamo fatto un po' di vacanze. E siamo andati 6 giorni, c'erano praticamente gli ombrelli fatti con le palme, tipo i tanti busciuti, tipo come varie isole tropicali, roba così, fatti così. Ma lì in un pezzo dove c'è la spiaggia c'era un chiosco, che c'è il chiosco è passato giù, non c'è più nulla. E lì c'era soltanto un'uscita delle macchine. Allora c'era quell'uscita lì, ha preso fuoco tutto quanto, oh, macchine e tutto, ha pigliato fuoco e non potevi uscire, solo dalla spiaggia potevi andare via. Allora, l'ho fatta apposta per non avere via di scampo. L'ho fatta apposta. Va bene, là, io ti saluto, che tesoro. Non da chiamarmi, sono meno un quarto. Lui è un orologio, vero tesorino? Dove andiamo adesso? Giù, se vedi come chiamava il medico, voglio detto così. E gli arruso così, mi piacciono che guccato. Vabbè già, ci sentiamo alle prossime, ok, ciao già, stammi bene, a risentirci. E niente, altrettanto, dai, buona serata, buona continuazione, alle prossime, ciao ciao. Ciao già.